Focus Economia. Con Simone Spezia. Proprio bene. 17,5 minuti, questo andiamo bene, la nostra sorella non era rivolta una volta tanto ai mercati, ma un errore di cui chiediamo scusa, chiaramente a chi rimpiange Simone Spezia resterà deluso. Con Sebastiano Berisoni oggi la prima puntata di Focus Economia della settimana, e adesso invece, al di là degli errori venali, andiamo avanti, veniali, andiamo avanti con la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. I mercati, come avete ascoltato dai nostri aggiornamenti, i mercati sono più che positivi. Londra è chiusa oggi, ma in realtà tutta la giornata economico-finanziaria ruota attorno, per quello che riguarda l'Italia si capisce, alle attese su quello che dovrebbe essere l'esito dell'incontro. Prima ad Arcore, ora nella sede della Lega, poi dovrebbe esserci un nuovo incontro, insomma, tra il PDL e la Lega, per capire quali ritocchi apportare alla manovra finanziaria. Molte le ipotesi che anche oggi trovate sui giornali, da una riduzione, diciamo, della metà dei tagli alle province e ai comuni, da 9 miliardi a 4 miliardi e mezzo, l'ipotesi IVA, aumento dell'IVA, fortemente contraria alla CISL, oltre che al mondo del commercio, più favorevole Confindustria. Invece l'ipotesi di tassazione delle grandi rendite o delle rendite superiori e capitali superiori al 1,5 milioni, prima casa esclusa, anche qui molta contrarietà da parte invece del PDL. Sulle pensioni la Lega non ne vuole sapere. Questo è il quadro, per dire semplicemente che ancora non si hanno notizie, non solo certe ma neanche indiscrezioni, di quello che è emerso dal doppio incontro di oggi e da quello che dovrebbe essere il terzo incontro. Faccio anche notare che per gli emendamenti alla legge finanziaria c'è tempo fino alle ore 20, quindi entro le 20 qualunque emendamento, anche quelli dell'opposizione chiaramente, ma soprattutto quelli della maggioranza, devono essere presentati. Di questo ci occuperemo dopo le 18. Oggi il programma infatti torna alla sua durata tradizionale, termina alle 18:30. In apertura un dato della Confcommercio che riguarda i consumi degli italiani. Ha fatto uno studio la Confcommercio e si è accorta che non solo i consumi non sono tornati nella stragrande maggioranza delle regioni italiane ai livelli del 2007, ma addirittura in molti casi, in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, sono anche inferiori nella stragrande maggioranza delle regioni italiane ai livelli del 2000, quindi dell'inizio dello scorso decennio, e questo è un dato più sorprendente. Tra l'altro, scorporando poi i vari elementi, ci si accorge che mentre il nord-est è tornato quasi sui livelli del 2000 e comunque ha recuperato bene, il divario più grosso lo sia al sud, dove i cali nei consumi sono molto sostenuti anche rispetto a 10 anni fa. Poi la Grecia, la borsa di Atene che oggi si infiamma per una fusione tra due banche, non è questo il motivo che condiziona in senso positivo Milano e altre borse europee, però è interessante capire perché due banche greche vanno a fondersi, cosa c'è sotto. In realtà non è solo una buona notizia. 349-238-6666 per i vostri sms, e allora rapidamente notizie in breve. Allora, l'altra notizia, giustamente fa notare alcuni di voi, riguarda anche il Fondo Monetario Internazionale, ce ne occuperemo nella seconda ora, ma la diamo anche subito come anticipazione. È arrivata, diciamo, la bozza di quello che è l'appuntamento autunnale con il World Economic Outlook, quindi le previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Confermata una ripresa mondiale indebolita, sembra un ossimoro in questo modo. In sostanza, il Fondo Monetario Internazionale dice la ripresa, la crescita è più debole, lo è a livello mondiale, però a livello mondiale siamo a un più 4% contro un più 4,2 e un più 4,3 nel 2012 contro un più 4,4. In realtà chi frena sono i paesi più industrializzati, come si chiamavano almeno una volta, e mi riferisco agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vanno praticamente a un più 1,6% come previsione del Fondo Monetario Internazionale nel 2011, vuol dire un taglio di quasi un punto percentuale rispetto alle stime precedenti. Per tradurlo ancora, vuol dire che secondo il Fondo Monetario Internazionale l'America crescerà della metà, quasi, rispetto a quanto stimato inizialmente. E anche per il 2012 si passa da un 2,7% di crescita a un 2% di crescita, anche qui ridotta di un terzo la crescita stimata per gli Stati Uniti. Ancora il Fondo Monetario Internazionale fa notare come i rischi comunque di una stagnazione economica negli Stati Uniti restino e rimangano, e quindi chiede alla Banca Centrale Americana di essere pronta a intervenire. Ce n'è chiaramente anche per l'Europa e l'Italia, ridotto all'1,9% la crescita nel 2011, è abbastanza simile rispetto alle prime stime, erano 2%, all'1,4% nel 2012, qui c'è un ritocco di 1,03%. I cali, le revisioni più pesanti si concentrano sulla Francia, che praticamente crescerà nel 2011 dell'1,8% e nel 2012 dell'1,6%, un 0,3% in meno, ma soprattutto sulla Germania. Quest'anno molto bene la Germania, più 3,2%, nel 2012 più 1,6% contro un 2% stimato inizialmente, quindi la frenata, se vogliamo dirla tutta, sarà più forte in Germania che in Francia. L'Italia, insomma, l'Italia vede diminuire la già modesta stima sulla sua crescita. Invece che l'1% quest'anno faremo lo 0,8%, e l'anno prossimo invece che l'1,3% faremo lo 0,7%. Il taglio sull'Italia è molto pesante quanto a stime, soprattutto per il 2012. Va bene, torneremo su questo alle 18:10. Adesso i mercati finanziari, quant'è il rialzo a Milano? Il 2,30%, nessun gallo però. Parigi più 2,30%, Francoforte più 2,50%, Londra, ricordo, è chiusa. L'America sta guadagnando l'1,35% sul Dow Jones e il 2% sul Nasdaq. Euro a quota 1,4524, i titoli. Bene il gruppo Fiat, ma soprattutto la controllante Exor, più 5%, poi Impregilo più 4,80%, Mediolanum più 4,60%, ST Microelectronics più 3,90%, A2A più 3,6% come Buzzi Unice, Mansaldo STS più 3% come Finmeccanica, Autogrill più 2,90% come Diasorin, Intesa San Paolo più 2,70% come Unicredit, ma anche Eni e il Banco Popolare. Chi perde? Nessuno. Bulgaria invariata, Monte dei Paschi guadagna solo lo 0,12%. Tornando poi al tema della congiuntura, dei rischi di stagnazione europea, oggi ha parlato anche il presidente uscente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, e in un intervento in audizione alla Commissione Affari Economico-Finanziari del Parlamento europeo. Ha detto Trichet: nel sistema europeo, nell'area euro, c'è una quantità enorme di collaterali e quindi non ci può essere mancanza di liquidità. E gli interventi della Banca Centrale Europea, che sta acquistando, che ha acquistato titoli di Stato sia italiani che spagnoli sul mercato secondario, quindi non con nuove emissioni, dice, gli interventi però non siano un alibi per i governi a risanare le proprie finanze, e fa sapere di aver acquistato titoli di Stato la settimana scorsa per 6 miliardi e 650 milioni di euro, in buona parte italiani e spagnoli, ma è una cifra di gran lunga inferiore rispetto a quanto non acquistò due settimane fa, nel pieno, diciamo, della tempesta di borsa. Arrivò a acquistare infatti 14 miliardi di euro di obbligazioni la Banca Centrale Europea, ripeto, in maggior parte, in larga parte spagnole e italiane. E un'ultima notizia riguarda invece la differenza tra quanto costa alla Germania trovare finanziatori per il suo debito e quanto costa l'Italia, ossia lo spread tra i BTP nostri e i Bund tedeschi. È tornato questa mattina vicino ai 300 punti e poi è ridisceso a quota 286. Vedremo come si muoverà, quando arriveranno notizie, aggiornamenti sugli emendamenti, sulle modifiche proposte a questa manovra finanziaria. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora, primo tema, mi riferisco ai consumi degli italiani, ma anche al ministro Tremonti, e qui apro un brevissimo inciso, che noi abbiamo nel corso di questi anni elogiato per aver tenuto botta sui conti pubblici. È verissimo quello che scrivono alcuni ascoltatori, che manca in questa finanziaria invece una parte sulla crescita, e lo abbiamo detto molte volte, non siamo i difensori d'ufficio di Tremonti, ci mancherebbe, e che manca una parte, diciamo, oltre che da ministro delle finanze anche da ministro dell'economia. Ed è verissimo che la finanziaria presentata a luglio, come poi si è scoperto vivendo, è una finanziaria che era meglio non presentare, visto che spostava tutti i tagli alla spesa pubblica al 2013-2014. La figura che ha fatto l'Italia non è stata delle migliori, anzi è stata delle peggiori, e ci hanno obbligato i mercati, sia sulle obbligazioni e sui titoli di Stato che sulla borsa, a invertire subito la rotta. Ma tant'è, questa è l'estate che ci lasciamo praticamente alle spalle. Vediamo invece, secondo Tremonti, intervenuto anche quest'anno al meeting di Rimini sabato, qual è l'autunno, speriamo non dei nostri sentimenti, ma neanche un autunno caldo, l'autunno che ci si prospetta. L'idea forte che si deve e si può sostenere è quella degli eurobond. In politica non esiste il copyright, e tuttavia è un'idea formulata alla metà degli anni 90 dal presidente, dall'allora presidente della Commissione europea, Jacques Delors. Quella idea non passò nel 2003, non passò perché non c'era consenso, non passò perché si opponeva alla Commissione europea, anche se alcuni manifestavano gradimento. Ma, come dice Monnet, non esistono idee anticipate o sbagliate perché anticipate, esistono solo idee che aspettano il loro tempo. E quel tempo sta arrivando, progressivamente, ma sta arrivando. Voglio dire un'altra cosa che forse è ancora più chiara. Dal dopoguerra fino a pochi anni fa, lo sviluppo della nostra economia era basato sull'automobile. L'automobile era il driver delle nostre economie. Voleva dire metallo, vetro, gomma, plastica, cemento per le autostrade, uno stile di vita. Noi dobbiamo trovare un nuovo modello, un nuovo driver di sviluppo, che non è nelle forme strumentali della nuova economia, che pure sono fondamentali, è in un nuovo tipo di bene di investimento comune. E l'unico modo per investire sul nostro futuro è quello degli eurobond. La crisi è stata gestita utilizzando per salvataggio i debiti pubblici. E questo alla fine ci porta al paradosso per cui quella che è stata la medicina è finito per diventare il male in sé. E alla prossima crisi, che cosa succede? E forse la parola prossima è sbagliata. Una volta ho usato un'immagine come essere dentro un videogame: arriva un mostro, lo batti, sei lì che ti rilassi, e arriva un altro mostro più grande del primo. Non c'è ancora il game over della crisi. Siamo ancora dentro un videogame dove i mostri si avvicendano in sequenza. Beh, game over potrebbe anche essere un'altra cosa. Speriamo che il game over sia quello della crisi, non il game over dell'economia dell'area euro, come si è rischiato di vedere in alcuni momenti di questa estate calda, più sul fronte dei mercati che sul fronte meteorologico. Non vorrei, vedo molti messaggi, ritornare sulle polemiche del governo che ha per mesi ignorato, detto che l'Italia non sarebbe stata toccata, che noi avevamo i risparmi delle famiglie, che non che le nostre banche non parlavano inglese, che la crisi non c'era, che poi la crisi era già finita senza mai esserci stata. Lo abbiamo detto, andiamo avanti. Adesso il governo si è reso conto che la manovra non teneva, sta cercando di trovare un accordo tra esigenze politiche della Lega, esigenze politiche del PDL e esigenze, diciamo, complessive di manovra, per cui l'impatto complessivo della manovra non può essere modificato. Certo che se si somma la manovra varata il 6 luglio, quella che si scaricava sul 2013-2014, e la manovra invece varata il 13 agosto, insomma, sono 80 miliardi più 51, fanno 131 miliardi da qua al 2014. 260 mila miliardi di vecchie lire, di cui 60% di nuove entrate, 40% di minori spese, e la pressione fiscale che salirà al 2013 dall'attuale 46,6% del PIL al 48,4%. Confermate il taglio delle spese ministeriali per 8 miliardi e mezzo, tassazione delle rendite finanziarie. Insomma, i nodi riguardano ancora cosa fare con le pensioni, usare l'IVA, cioè aumentare di un punto percentuale l'IVA per tagliare meno ai comuni e alle province. E poi la patrimoniale, l'aliquota al 5% per chi ha ricchezze oltre un milione e mezzo di euro, escluso la prima casa? O invece alzare la soglia del contributo di solidarietà, portando da 90.000 euro a 150.000 euro la soglia oltre la quale si va a pagare il contributo di solidarietà? E nel frattempo oggi la Confcommercio è uscita con un rapporto sui consumi delle regioni italiane, in cui emerge come, insomma, ci siano 17 regioni addirittura sotto il livello del 2000. Al responsabile dell'ufficio studi della Confcommercio, Mariano Bella, buonasera innanzitutto. Buonasera. Prima domanda, poi andiamo nel dettaglio. Sa che a essere maliziosi si fa peccato? A pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca. Non è che siete usciti oggi con questo rapporto perché temete che il governo tiri fuori l'aumento dell'IVA al 21%? No, perché il tempismo. No, il tempismo è. Questo, no, cioè, si deve importare, ma forse lei ci sopravvaluta. Ecco. No, il problema questo dell'IVA è un problema che, ahimè, cioè, da un mese, se non di più, sul piatto da diverso tempo. Noi abbiamo detto che nell'attuale situazione un incremento delle aliquote IVA o anche di una sola aliquota avrebbe effetti recessivi, non siamo i soli a dirlo. D'altra parte, quello che non ci piace del complesso di questa manovra è che c'è sotto sotto l'idea che le tasse, le imposte siano la cura. Noi invece riteniamo che sono la malattia del paese. Sono 20 anni che abbiamo contributi di solidarietà, incrementi delle accise, incrementi del prezzo delle sigarette, con l'eurotassa poi parzialmente restituita, incremento delle aliquote, incremento dell'addizionale IRPEF, incremento delle addizionali comunali. Però, nonostante tutta questa storia di imposte, la spesa pubblica continua a crescere e il debito continua a crescere, ha allegramente superato il 120% del PIL. Questo forse dovrebbe farci riflettere che forse un cambio, ma l'aveva detto anche lei prima, un cambio di strategia, cioè puntare un pochino di più sulla crescita, meno sulle imposte, forse sarebbe opportuno. Ecco. Perché temete così tanto? Io capisco, insomma, le imposte non piacciono a nessuno, soprattutto a chi le paga, che non sono necessariamente tutti gli italiani, anzi. Ecco. Però... perché temete molto da questo aumento dell'IVA? Cioè, in altri paesi l'hanno fatto, la Germania a suo tempo aumentò l'IVA, vado a memoria, potrei dire un'inesattezza, ma di quasi 4 punti percentuali, contrattando in cambio incentivi e agevolazioni per le imprese, per cui, insomma, era un do-des in cui si pagava un po' di più sui consumi, ma si aiutavano le imprese con tutto un insieme di agevolazioni e incentivi a uscire dal pantano della crisi, e gli effetti in Germania poi si sono visti. Ecco, forse una battuta su questo è veramente necessaria, perché a me sembra, sulla base di documenti pubblici della Commissione europea e di altri istituti di ricerca, che le cose non siano proprio così. Cioè, non è l'Italia che deve fare come la Germania, ma è la Germania che ha fatto come l'Italia. Esattamente il 1 gennaio del 2007 la Germania ha portato l'aliquota normale, lo standard rate dell'IVA, dal 16 al 19%, cioè si è adeguata a quella che, a quelli che erano gli standard dettati dalla Commissione Europea, che dicevano che l'aliquota standard non può essere inferiore al 15%. Loro l'hanno tenuta per 10 anni al 16 e poi l'hanno portata al 19. L'Italia ha l'aliquota standard al 20% dal 1 ottobre del 1997. Cioè noi in termini di aliquote legali siamo ai massimi, no, sì, no, è vero, la Romania forse ci batte perché c'è il 25, ma ora non credo che diciamo sia scritto nelle tavole della legge che l'Italia deve avere tutte le aliquote IVA più elevate. Cioè secondo me questa storia della Germania non è proprio... No, lasciamo stare la Germania, però di tutte le misure che si possono prendere, tra il taglio agli enti locali, un punto percentuale di IVA è sicuramente doloroso, ma permetterebbe di non aumentare le tasse su altri fronti, soprattutto su chi già le paga, come il contributo di solidarietà, che va a beccare l'87% pensionati e dipendenti, non commercianti, me lo dico con massimo rispetto, però insomma non commercianti, perché insomma sappiamo che poi gli italiani che guadagnano più di 100.000 euro l'anno sono una stragrande maggioranza per dei casi dipendenti o pensionati. Allora, non potrebbe essere il male, e parlo di male, minore? No, perché andrebbe a ridurre il reddito disponibile soprattutto di quelli che non evadono le imposte, mentre l'evasore IVA, diciamo l'evasore totale, se ne sono scoperti anche negli ultimi giorni, continuerebbe a tenere la sua bella filiera all'oscuro del fisco. Non solo si ridurrebbe il reddito disponibile attraverso l'incremento dei prezzi, ma si ridurrebbe anche il potere d'acquisto di tutti i risparmi che abbiamo messo da parte. Questo è un punto che a mio parere è stato trascurato fino adesso, cioè se una famiglia ha messo da parte dei soldi perché vuole comprare un corso di aggiornamento per il figlio, un corso d'inglese, una macchina, ha messo da parte questi soldi, se aumentiamo l'IVA quei soldi non basteranno più a fare quell'acquisto e quindi si dovrà incrementare la propensione al risparmio per accumulare quello che manca per l'acquisto programmato, oppure rinunciare all'acquisto programmato. Cioè l'effetto recessivo nasce non solo da un effetto reddito ma anche da un effetto ricchezza. Dopodiché, Berisoni, se il problema è l'evasione, ed è il problema, combattiamo l'evasione, non che creiamo un altro problema all'italiana perché non siamo in grado di risolvere quello. È l'evasione, è l'IVA, è l'imposta più evasa. Cioè le nostre aliquote legali sono ai massimi, li confrontiamo con la Francia, ho tutte le tabelle davanti, lasciamo perdere, confrontiamo con la Spagna, siamo sempre sopra. Il nostro problema è l'evasione, dell'IVA e anche dell'IRPEF, allora combattiamo l'evasione. Questo è il ragionamento. No, è chiaro, insomma, è chiara la vostra opposizione. Vedo che dice, insomma, qualcuno mi accusa di caramellare i provvedimenti del governo. Interessante neologismo, non mi sembrava di essere così dolce con i provvedimenti del governo. Comunque, e ancora sulla Germania che partiva dal 16%, siamo d'accordo che la Germania partisse dal 16%, si è solo detto, lì c'è stato comunque di 3 punti percentuali, non 4, un aumento dell'IVA. No, sto rispondendo a alcuni sms, e infine alcuni dicono basta, fissate un limite invalicabile alle previsioni di spesa pubblica. Sì, certo, questo sarebbe auspicabile, ma di fatto te lo chiede l'Europa, te lo chiede Bruxelles, ma te lo chiedono i mercati, di ridurre la spesa pubblica, non è, o di aumentare il rapporto spesa pubblica entrate. Non serve fissare un limite per legge che tanto poi verrebbe rotto. Sentiamo invece Bella che come si sono mossi, o meglio sono indietreggiati i consumi nelle varie regioni italiane. Voi oggi avete fatto un calcolo dal 2000 al 2011 a prezzi correnti, a prezzi in termini reali, quindi al netto dell'inflazione. Quanto è l'andamento dei consumi nelle varie regioni? Si parte dal 1995 con un valore 100, questa scheda ci ricorda e ci racconta quasi tutti hanno fatto il passo del gambero, alcuni l'hanno fatto anche più velocemente di altri. È un Sud Italia che si allontana dal resto del paese anche sul fronte dei consumi, quello descritto dall'indagine di Confcommercio. Nella fotografia scattata sull'andamento dei consumi degli ultimi 10 anni, emerge che il Sud, particolarmente colpito dalla crisi, ha visto ridimensionarsi la quota dei consumi sul totale nazionale. La percentuale è infatti passata dal 27,2% del 2007 al 26,6% del 2011. A pesare su questo andamento anche in parte il calo demografico nel Mezzogiorno, alla base del quale figurano sia la crescente presenza degli stranieri al centro-nord che la ripresa dei flussi migratori verso il settentrione. Ma dove si sono registrati i maggiori livelli di contrazione dei consumi in termini reali? A livello di singole regioni, quest'anno solo in Friuli, Molise e Basilicata, la dinamica dei consumi pro capite è tornata a livelli superiori a quelli del 2000. Picchi in negativo, invece, in Puglia, dove la flessione dei consumi pro capite è stata superiore a 5 punti rispetto a 11 anni fa, valore sfiorato dalla Campania. Male anche la Calabria, con un calo di oltre 3 punti, e il Lazio, che lascia per strada ben 8 punti. E al nord? Scivolone per Valle d'Aosta, meno 7 punti rispetto al 2000, ed Emilia-Romagna, meno 6 punti. Hanno infine, per così dire, contenuto le perdite intorno ai 2 punti, Piemonte, Veneto e Lombardia. Allora, non vi dico gli sms che stanno arrivando al 349-238-6666 perché ho definito l'IVA un male minore. Come devo definire? Molti dicono che sono fuori di testa, che l'IVA sarebbe una sciagura, ma non è tutti d'accordo che trovare alla fin fine 120 miliardi di euro in 4 anni, 131 miliardi di euro in 4 anni non sia bello. Si sta solo ragionando se è meglio utilizzarli sull'IVA oppure ridurre gli stanziamenti a comuni e enti locali che però poi te li scaricano con l'addizionale IRPEF o la tassa di solidarietà, oppure, a mio avviso, anche l'aumento delle pensioni andrebbe preso in considerazione, ma non è importante il mio punto di vista. Invece, Mariano Bella, io vorrei capire con lei, dopo il metodo e la pubblicità, come mai i consumi hanno avuto una contrazione così forte anche rispetto al 2000, non rispetto al 2007, in alcune regioni in maniera specifica, e se c'è una correlazione tra capacità di esportare, cioè l'aver agganciato la ripresa economica a livello mondiale di alcune regioni, e l'andamento dei consumi, perché non è così netto, così guardando questi dati, il legame. 349-238-6666 per gli sms, la risposta dopo il meteo. Focus Economia. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Allora, Mariano Bella, intanto però mi dico una cosa perché lo chiedono gli ascoltatori. La Confcommercio, quindi la più importante organizzazione che rappresenta il mondo dei commercianti in Italia, sarebbe più d'accordo a un aumento dell'età pensionabile, chiaramente, che non l'IVA, o no? Sì, perché l'aumento dell'età pensionabile è un naturale, è una naturale presa di coscienza del fatto che l'aspettativa di vita è cresciuta e l'età lavorativa deve crescere, il tempo di lavoro deve crescere, perché se no c'è uno sbilancio. Tra l'altro, quando si parla di età pensionabile, non bisogna ritenere che qualcuno ce l'ha con i neopensionati o i pensionandi, le dici vuoi bloccare quelle persone. Se non adeguiamo questi due parametri, saranno i nuovi lavoratori, i giovani, che dovranno pagare questo sbilancio, oppure, è insieme tutti quelli che andranno a pensione tra 12, 15, 17 anni. C'è qualcuno che paga, c'è sempre, se qualcuno, diciamo, prende più prestazioni rispetto al valore capitalizzato dei contributi versati, ok? Sì, sono d'accordo. Tra l'altro devo dire che con i tempi che passano, forse lavorare uno o due anni in più non sarebbe neanche male. Me la dice, me la spezza però una lancia a favore dello scontrino fiscale, bella, poi parliamo delle ragioni, cioè fate campagna, lo so, di sensibilizzazione. Noi facciamo quotidianamente campagna contro l'evasione fiscale, perché vorrei ricordare contro lo scontrino fiscale, contro l'evasione. Perché se c'è un commerciante, un imprenditore che evade il fisco, il primo soggetto penalizzato e il più penalizzato è il commerciante più prossimo o l'imprenditore più prossimo che opera nello stesso settore che non evade il fisco, perché concorrenza sleale e quindi diciamo c'è questa forma di concorrenza fiscale. Però vorrei ricordare che insistere troppo sugli scontrini fiscali vuol dire anche dimenticarsi che esistono anche gli studi di settore, cioè lo scontrino fiscale è un pezzo della vicenda. Oggi leggevo anche quello che diceva il responsabile Befera su questo punto. Si lavora per rafforzare redditometro e anche la questione degli scontrini fiscali, ma il fulcro adesso è lo studio di settore, cioè tu puoi fare lo spavaldo, il mascalzone sugli scontrini fiscali, ma se gli studi di settore sono ben congegnati, ben negoziati con le parti in maniera precisa, poi alla fine i quattrini li devi pagare lo stesso. Allora, ultimo tema, che poi dobbiamo spostarci sugli euro bond di Tremonti, ma insomma, la fotografia che emerge dal vostro rapporto sui consumi regionali, oltre che segnalare una stragrande maggioranza di regioni che non sono nemmeno tornate ai livelli del 2000, non mi sembra così univoco nel mostrare una correlazione tra regioni vocate all'export e ritorno dei consumi, tranne che per il Veneto, dove siamo quasi, e l'Emilia, dove siamo quasi ai livelli del 2000 e vicini al livello del 2007, non so, in Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, non c'è. Lei si sarà chiesto perché? Beh, e si sarà dato anche una risposta, così faccio con Marzullo, dica. Esatto, ma perché le esportazioni sono un pezzo della vicenda delle relazioni economiche di una regione? Cioè, purtroppo bisogna ricordare che per un euro di esportazione in Italia complessivamente ci abbiamo un euro di importazione, se non qualcosina in più, quindi il saldo netto della contribuzione dell'estero è spesso negativo. E poi domandiamoci con franchezza, ma questo aggancio dell'Italia alla ripresa del commercio mondiale c'è stato veramente? È stata una piccola cosa che si è manifestata in maniera larvata nel 2010 e già nel 2011 ci siamo sganciati, e questo è l'aspetto complicato che poi ha portato molti osservatori a una riflessione più ampia su questa dimensione della globalizzazione e del ruolo dell'Italia. Cioè, se noi guardiamo il grafico delle esportazioni in quantità della Germania in confronto con il commercio mondiale, si vede che le due linee sono molto simili. Il commercio mondiale è cresciuto, la Germania è cresciuta, l'Italia è cresciuta modestissimamente. E questo poi si riverbera in termini di reddito e quindi di consumi. Ho capito, quindi lei dice, insomma, ed è per questo che si annacqua moltissimo la componente di alcune regioni che sono molto vocate all'export. E che però non vedono una ripartenza dei consumi, ripeto, tranne in Friuli Venezia Giulia, che ha dei consumi anche più alti rispetto alla crisi, cioè 2007-2009. Con una 2009. Popolazione però sostanzialmente stabile. E il Veneto, che si riavvicina, come ricordava la nostra scheda, ai consumi del 2000 e va abbastanza vicino anche ai consumi del 2007, tutte le altre regioni sono distanti sia dal 2007 che dal 2000. Mi ha fatto impressione vedere che comunque molte regioni già nel 2007 bella consumassero pro capite meno del 2000. Quindi non potrebbe essere l'effetto euro, lira euro? Forse i vostri associati qualche responsabilità ce l'hanno? No? Lo so che in chiusura delle nostre chiacchierate ho capito, a parare è sempre lì, ma lei sa benissimo che se guardi i dati dell'Istat, da cui poi noi traiamo queste valutazioni, il PIL e il reddito disponibile delle famiglie consumatrici e i consumi tra il 2000 e il 2007 sono cresciuti veramente pochissimo. Se ci togliamo la popolazione sono diminuiti, e il dramma del paese è proprio questo, non è tanto il biennio 2008-2009 ma quello che c'era prima. Ho un déjà vu. Anch'io. Non, tanto non ci riesco, ci sono degli elementi che sono proprio... si sono un po' sclerotizzati, il prezzo della benzina, il passaggio euro-lira e quello che ha fatto il mondo del commercio. Io la ringrazio invece per la disponibilità e anche per la chiarezza nelle vostre posizioni, assolutamente comprensibile e logica la posizione della Confcommercio. Grazie al direttore dell'ufficio studi Mariano Bella. A presto. capisco di meno invece, ma adesso gli giro la domanda, perché un economista, no, molte volte nostro ospite, con una visione assolutamente europea, è il direttore dell'Istituto del Centro per gli Studi di Politica Europea di Bruxelles, è il CEPS, Daniel Gross è il suo nome, perché sia così contrario alla proposta che è arrivata non solo da Tremonti fu uno dei primi, ma Juncker si è detto d'accordo, ci stavano ragionando la Merkel e Sarkozy, e mi riferisco alla proposta degli Eurobond, di fare delle obbligazioni, dei titoli di Stato, dei BOT o BTP, emessi però dall'area euro, non dai singoli paesi. Daniel Gross, in collegamento da Bruxelles, buonasera. Buonasera a Bruxelles. Allora, ho visto che lei ha scritto in un sito in cui molti economisti di vari paesi europei scrivono e lasciano i loro commenti, insomma, gli Eurobonds, la soluzione sbagliata per motivi legali, politici ed economici. Tutto sbagliato. Allora, ci aiuta a capire perché un'idea che già fu di Jacques Delors, se non ricordo male, cioè uno dei padri dell'euro, quella di avere soprattutto per le opere infrastrutturali, i corridoi europei o quant'altro, un debito che sia un debito di tutta l'area euro e non solo dei singoli paesi. In quel modo, e finisco, sarebbe molto più difficile attaccare questi titoli di Stato, perché dietro avrebbero le economie di tutta l'area euro, non l'economia solo della Spagna o dell'Italia o peggio ancora della Grecia o dell'Irlanda. Daniel Gross, perché è contrario? Ma io non sarei per niente contrario a finanziare opere di infrastruttura e altre cose simili attraverso degli Eurobonds, nel senso che sono garantiti da tutti gli Stati membri. Quello che secondo me non può funzionare è tutta un'altra cosa, e dire che tutto il debito nazionale, italiano, spagnolo, francese e altro, viene garantito da tutti quanti. Questa è una cosa, secondo me, sarebbe molto difficile da implementare oggi, e secondo me avrebbe anche qualche costo economico. Lei teme che poi in realtà la garanzia ultima di questi Eurobond si chiamerebbe Germania, o al massimo Germania e Francia? Potrebbe essere anche poi i piccoli paesi più fiscalmente soliti, come la Finlandia, i Paesi Bassi o altri. Comunque bisogna essere veramente molto precisi. Eurobonds per finanziare l'Unione Europea o per compiti precisi dell'Unione Europea sono una cosa che è accettabilissima. Eurobonds per finanziare i deficit nazionali, secondo me, non vanno bene. Quindi lei dice, si potrebbe immaginare un'obbligazione europea solo su progetti mirati, cioè se fosse, molto spesso parliamo dei TENS, dei Trans European Networks, dei corridoi europei, se ci fosse da finanziare un'opera infrastrutturale, lei sarebbe d'accordo in quel caso, specificatamente? Sì. Senz'altro si potrebbe pensare a questo, ma si potrebbe andare oltre. Un altro compito molto importante dell'Unione Europea è salvaguardare la stabilità dei mercati finanziari. Anche questo è un compito comune, che potrebbe richiedere un finanziamento comune, ma di nuovo non è la stessa cosa che dire tutto il debito italiano diventa debito europeo. No, anche perché abbiamo quello più grosso, quindi ne avremo un vantaggio solo noi. Mi dica una cosa, Daniel Gross, riguardo alla manovra economica italiana, è una manovra che stiamo aspettando di capire come si concluderà il vertice tra la Lega e il PDL. Lei, se potesse scegliere, preferirebbe aumentare l'IVA, aumentare l'età pensionabile, aumentare le tasse per chi guadagna più di 100.000 euro lordi l'anno, pur sapendo che l'evasione qui è molto alta e quindi sono tutti pensionati dipendenti, cioè quale è la strada più credibile, oppure non le ne frega nulla perché l'importante è l'ammontare complessivo dei tagli? No, penso che come si raggiunge il saldo necessario è molto importante, ma magari si potrebbe fare tutto questo, quello che ha detto lei, e poi ridurre le imposte sul lavoro. Perché così facendo si favorirebbe l'export italiano, che potrebbe così diventare un motore di crescita, che è poi il motore più importante, ed è quello che manca per ora in Italia. Quindi lei sarebbe per tagliare l'IRPEF, di qualche punto, il cuneo fiscale cosiddetto? Il cuneo fiscale, naturalmente anche i contributi sociali, con tutto il gettito che si avrebbe accumulando tutte le altre cose, specialmente aumentando l'IVA. Si potrebbe dare al paese praticamente qualcosa come una salutazione. Ricordo che la Germania ha fatto una cosa molto simile quando ha fatto il suo aggiustamento fiscale qualche anno fa, e sempre ha funzionato molto bene. Dopo il traffico le vorrei chiedere un'ultima cosa, poi pensiamo ai mercati, cioè il suo giudizio sulla manovra italiana complessivamente, tanto ce l'avrà, e poi se, forse la parte più difficile, se ritiene che tutto il grosso attacco speculativo ai debiti europei sia, non dico terminato, ma stia scemando, oppure c'è solo una presa di fiato e poi ricominceremo a ballare tra pochi giorni. 349-238-6666 per i vostri sms, la risposta dopo il traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Daniel Gross, giudizio sulla manovra italiana e poi se ritiene che l'attacco speculativo, ma non in quanto speculativo sbagliato, ai debiti europei sia ormai stia scemando oppure abbia solo preso una pausa. Un giudizio sulla manovra non si può dare naturalmente, ma è chiaro che l'Italia ci sta provando molto seriamente e che c'è unanimità sul fatto che il bilancio va aggiustato. Questo è già, diciamo, metà della storia, speriamo che l'altra metà, cioè di come farlo, vada bene anche essa. Sugli attacchi speculativi, sì, penso l'unica cosa che si possa dire è che per il momento c'è una calma transitoria grazie all'intervento delle BCE. Abbiamo avuto già una calma transitoria un anno fa e ci ha illusi che poi dopo il problema era finito. Io direi dovremmo utilizzare queste settimane, magari se sono solamente questo, per rafforzare veramente il dispositivo di difesa. Mi dica solo una cosa, secondo lei tutte le polemiche che ci sono in Italia sui costi, non tanto della politica ormai, ma dei parlamentari, sono demagogia e populismo oppure da lì deve arrivare anche un'indicazione? Cioè il fatto che in Italia un parlamentare guadagni 144.000 euro tra indennità, diarie e rimborso spese, mentre in Germania 84.000, Gran Bretagna 81.000, Francia 60.000, Svezia 57.000, è così un modo specioso per attaccare la politica o invece sarebbe un segnale importante, visto che lei studia anche le politiche economiche di carattere europeo? Secondo me sul bilancio dello Stato non incide veramente, può essere un segnale che si vuole fare un'altra politica, e è sempre chiaro che la politica, se dà un buon esempio, può anche più facilmente indurre la gente a pagare le tasse e a stringere la cinghia, che è quello che si deve fare in Italia. E io direi piuttosto un segnale politico, ma deve essere uno fatto serio. Per me, io preferirei un parlamentare molto ben pagato, che faccia il suo lavoro indipendentemente da altri compiti o altri posti che gli potrebbero offrire, che un parlamentare mal pagato che poi magari più facilmente influenzabile da interessi economici. Sì, sa qual è il problema? Che qua sono ben pagati e restano influenzabili da interessi economici, quindi capisce? No, è grosso, lei ha ragione, però... Vabbè, grazie al direttore del Centro Studi per le Politiche Europee, Daniel Gross, in collegamento con noi da Bruxelles. Arrivederci. Ha ragione chi scrive al 349-238-6666 che l'unico tentativo di ridurre, anzi l'unico esercizio per ridurre il cuneo fiscale lo compì l'allora governo Prodi, 5 punti. Noi non critichiamo quella misura, critichiamo solo il fatto che 3 punti andarono alle imprese e 2 ai lavoratori dipendenti in busta paga. Forse col senno di poi era meglio dare 5 punti subito tutti ai lavoratori in busta paga, perché avrebbe stimolato in maniera virtuosa maggiormente i consumi. Va bene, le borse di inizio settimana, sarà Londra chiusa, sarà che sta finendo l'estate, sarà quel che sarà, ma oggi la settimana parte bene, più 2,30% su Milano, più 2,40% su Francoforte, più 2,1% su Parigi, euro a quota 1,4511, in evidenza soprattutto il gruppo Fiat, allora borse. Gruppo Fiat e controllante, soprattutto Exor, più 4,35 5,32%, ma c'è uno strappo nel finale di Mediolanum più 5,32%, in pregilo più 4,91%, Buzzi Unicem più 4,1%, Estima Microelectronics più 4%, e poi A2A più 3,80%, Ansaldo più 3,5%, Intesa più 3% come Autogrill, Enel più 2,90%. Si è un po' ridotto il guadagno di Eni al 2,5%. Per quello che riguarda i titoli Fiat, Fiat Industrial più 2,60%, e Fiat Auto, eccola qua, più 1,44%. Bene anche Telecom più 2,70%, Finmeccanica più 2,80%, appunto, e Mediaset, dicevamo, più 2,70%. Infine Terna più 2,40% come Banco Popolare e Pirelli, Snam Rete Gas più 2,30% come Fondiere Assai e Unicredit, e anche Saipem. 349-238-6666 per i vostri sms, come sempre con Radio Corio sulle 24 ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Come sempre con Radio Corio sulle 24 ore, il commento di borsa. Allora, il motivo di un rialzo qual è? La chiusura di Londra? Ma innanzitutto no. Questa mattina c'è la indiscrezione che poi si è rivelata realtà, che le due banche greche, Eurobank e Alfa, hanno annunciato la propria fusione, e questo ha posto assolutamente in secondo piano anche il monito lanciato da Christine Lagarde, il direttore del Fondo Monetario Europeo, che invece ha indicato la necessità di una ricapitalizzazione degli istituti di credito europei per evitare un eventuale contagio tra le banche appunto dell'Unione Europea. E tutto il sistema bancario, tutto il settore bancario è andato molto bene in tutta Europa, il sottoindice ha guadagnato quasi il 2%, sono andate molto bene anche le banche milanesi. E comunque poi nel pomeriggio sono arrivati anche i dati americani che hanno spinto all'insù Wall Street, che sono risultati migliori delle attese. Soprattutto è piaciuto il dato sulle spese, che lo scorso luglio sono salite dello 0,8%, e ricordiamo che alla fine sono proprio i consumi americani il maggiore motore dell'economia di oltreoceano. Quindi questo ha dato in là una serie di ordini in acquisto. Quindi nessun impatto invece le nuove stime in tutte le riviste a ribasso del Fondo Monetario Internazionale? Oggi no, però va detto, come hai già sottolineato tu, che Londra è chiusa, è un'importante crocevia degli scambi internazionali, quindi occorrerà vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Del resto anche lo stesso Jean-Claude Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea, ha sottolineato che l'incertezza rimane molto elevata, quindi è tutto da confermare nei prossimi giorni. Sì, e sorrido perché un ascoltatore scrive, ma insomma la fusione delle due banche greche, che sono FG Eurobank, Ergasias e Alfa Bank, è come legare assieme due sassi sperando che galleggino. Adesso ne parleremo, ma devo dire che non va molto lontano, perché questa fusione è stata resa possibile solo grazie all'intervento del Fondo Sovrano del Qatar, che dovrebbe mettere quasi mezzo miliardo di euro nell'operazione, altrimenti veramente fondevi due debolezze. Andiamo sui titoli invece. Eni ha firmato oggi un accordo con il Consiglio Nazionale Transitorio Libico, un memorandum che rafforza la cooperazione dell'Eni nel paese, nella Libia. E il titolo andava bene, ha chiuso comunque con un più 2,30%. Sì, più 2,3%, ma subito dopo l'annuncio le azioni sono arrivate a guadagnare circa il 3%, ovviamente festeggiando la notizia che verranno riprese al più presto le attività in Libia, e soprattutto verrà riavviato il gasdotto Green Stream. Ancora per quello che riguarda i settori, oggi molto bene tutto il settore costruzione, non fa eccezione Milano, perché in pregilo più 4,90, dicevamo, e Buzzi Unicem più 4,1. Sì, esatto, infatti oggi è andato molto bene tutto il settore delle costruzioni, che è uno di quelli che invece aveva sofferto di più nelle ultime settimane. Per quanto riguarda Impregilo, va detto che venerdì scorso la società ha pubblicato i conti, che sono risultati migliori delle attese, i conti ovviamente del primo semestre archiviati con ricavi in linea con quelli del 2010, pari a circa 1 miliardo, e un utile netto di 39 milioni, in ribasso, ma anche perché l'anno scorso c'erano delle poste straordinarie. Ma soprattutto sempre venerdì scorso il presidente Ponzellini ha indicato che c'è assoluta concordia, queste sono le sue letterali parole, tra i soci, e quindi Se lo dice Ponzellini. Allora Eleonora, resta con noi perché c'è il GR adesso, e poi invece vorrei parlare anche di altri titoli, Exor, ma non solo. e anche alcuni settori minori, titoli minori che ben sono comportati in borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Ci sentiamo dopo il GR. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora concludiamo l'approfondimento di borsa, il commento di borsa, e poi passiamo anche alle dichiarazioni del numero uno della Banca Centrale Europea Trichet e alle prime indiscrezioni che stanno trapelando sulle modifiche alla manovra finanziaria. Eleonora Micheli, si diceva Exor, quindi la controllante del gruppo Fiat, più 4,35%. Sì, più 4,35% nel giorno in cui la holding ha annunciato i conti del periodo gennaio-giugno, chiusi con un utile consolidato di 477 milioni rispetto ai 25 milioni dello stesso periodo del 2010. Quindi il mercato ha festeggiato questi conti e ha premiato appunto la finanziaria con questo balzo in avanti che è ben più consistente rispetto a quello delle partecipate Fiat e Fiat Industrial. Chiudiamo con due titoli minori. Da un lato in positivo Falck Renewable, che è il miglior titolo in assoluto, quasi il 20% di rialzo, più 19,2%. Dall'altro invece pesante il calo in alcuni momenti della giornata per Landi Renzo, meno 3,53%. Su Falck c'è un'indiscrezione del Sole 24 Ore. Esatto, infatti è da questa mattina che le azioni stanno andando molto bene. Secondo il Sole 24 Ore ci sono alcuni fondi di investimento interessati a rilevare le attività eoliche inglesi della società. Attività che hanno un valore di circa 630 milioni, quasi pari al livello del debito che proprio oggi è stato indicato essere pari a 655 milioni. Poi tra l'altro poco dopo le 17 l'azienda ha indicato anche i conti del primo semestre che sono stati archiviati con ricavi pari a 114 milioni, il rialzo del 32%, un EBITDA di 65 milioni in progresso del 39%, ma sicuramente era più l'aspetto speculativo che spingeva in alto le azioni che sin da questa mattina hanno iniziato a fare ben oltre il 10%. Per quanto riguarda invece Landi Renzo, la società ha rivisto al ribasso le stime per fine anno e quindi ne ha pagato le conseguenze, tant'è che anche delle banche e degli analisti hanno rivisto al ribasso il proprio giudizio sull'azienda. E infatti il titolo perde 3,53%, il peggior titolo IT Way meno 6,80%, viene in industria meno 5,30% e anche Montefibre meno 4,62%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Colle Sole 24 Ore. Buonasera. Arriveremo anche alla Grecia, la fusione resa possibile, ripeto, solo da un massiccio investimento del fondo del Qatar. Vorrei però farvi ascoltare prima di tutto che cosa ha detto oggi Jean-Claude Trichet, intervenuto al Parlamento europeo, spiegando che quello che è l'operazione di sostegno della Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Europea ha comprato 2 settimane fa 14 miliardi e mezzo di euro di obbligazioni, principalmente spagnole e italiane, la settimana scorsa 6 miliardi e mezzo, ma dicevo, questo intervento sul mercato secondario, quindi non su nuove emissioni, non può essere un alibi per i vari stati a ridurre i loro debiti. Continuiamo a rilevare per l'economia dell'area euro modeste prospettive per la crescita in un contesto di fondamentali relativamente sani. Il clima di incertezza resta particolarmente elevato e questo è determinato dagli aggiustamenti di bilancio in diversi Paesi membri e dalle prospettive per l'economia a livello globale. Voglio insistere sul fatto che nel sistema bancario europeo c'è una quantità enorme di collaterali, quindi non ci può essere mancanza di liquidità. Il valore totale dei collaterali è pari a una cifra di 13-14 mila miliardi di euro. Voglio aggiungere che gli interventi della BCE per l'acquisto di titoli pubblici sul mercato secondario non devono essere un alibi per i singoli paesi per non rispettare la disciplina di bilancio. Ci aspettiamo che i governi della zona euro mettano in pratica in modo integrale e nei tempi previsti le misure promesse nel vertice europeo straordinario del 21 luglio scorso. La messa in atto di quelle decisioni è essenziale. La determinazione degli altri governi della zona euro a mantenere gli impegni è un elemento chiave per tornare a finanze sane e per contribuire alla stabilità dei mercati. Che l'intervento della Banca Centrale Europea a luglio e agosto, tra luglio e agosto, sia stato fondamentale, lo ha ribadito oggi il ministro delle finanze polacco, Rostowski, presidente di turno della Polonia del Consiglio Europeo, ha detto: la Banca Centrale Europea a luglio ha salvato l'Europa. Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, riprendendo questo giudizio, da quello che capiamo, oggi il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto le stime di crescita, tutte a ribasso, America soprattutto, ma anche Italia e Germania 2011-2012. La Banca Centrale Europea ha detto: attenzione, i nostri interventi non possono diventare la foglia di fico per i governi per non ridurre i costi della pubblica amministrazione. Temi o c'è la possibilità che la Banca Centrale Europea torni a dover salvare l'Europa, oppure dopo un'estate tra le peggiori che io ricordi, sicuramente sui mercati, ma non solo, la situazione potrebbe calmarsi con settembre-ottobre? Beh, diciamo così, che quel concerto di iniziative che è stato preso a livello dei governi europei più che della Banca Centrale Europea ha permesso alle varie banche, le grandi banche europee, di posizionarsi meglio sul mercato internazionale, soprattutto dopo la grave crisi di liquidità e patrimoniale che ha seguito il 2007. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire, uno, che per quanto riguarda la borsa, vediamolo con un occhio dell'operatore finanziario e dei risparmiatori, per quanto riguarda la borsa, il taglio che ha operato oggi il Fondo Monetario Internazionale sulle stime di crescita dei vari paesi è un bene. Perché? Perché porta certezze. Vivere nell'incertezza, non sapere di quanto pagheremo in termini di crescita economica o di rallentamento, l'attuale fase di stagnazione che c'è nelle economie mondiali, soprattutto quelle occidentali, pesava sul mercato finanziario. Tant'è vero che oggi si sta aspettando che, alla luce delle nuove previsioni di crescita delle economie, si rivedano anche i rating e le varie prospettive di crescita delle azioni. Questo dovrebbe portare un po' più di stabilità sul mercato e meno volatilità, perché si avranno, diciamo così, dei parametri più certi su cui giudicare i prezzi azionari. Detto questo, settembre è un mese difficile storicamente, io lo dico per la curiosità dei nostri ascoltatori: dal 1950 settembre chiude sempre in rosso per la borsa, cioè normalmente si perde un po', perché è l'ultimo mese prima del trimestre finale dell'anno, quello dove poi ci si riposiziona sugli investimenti, ma anche perché, attenzione, dietro, con gli ultimi rimbalzi che ci sono stati sulle borse, ad esempio l'indice Standard & Poor's adesso è in rialzo di più del 7% sul secondo minimo che ha toccato nella crisi di quest'estate. Quindi siamo anche in una fase in cui le azioni si sono riprese. Terzo punto, banche ed economia. Lì è una questione abbastanza delicata, perché la Lagarde, la nuova presidente del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, è stata molto dura, dicendo che le banche bisognerebbe obbligarle anche a ricapitalizzare. Questo significa che il fondo prevede un periodo ancora difficile per il sistema creditizio internazionale. L'ultimo aspetto è l'economia. L'economia, che cosa dobbiamo pensare? Questa sarà una settimana molto importante, infatti bisogna seguirla con grande attenzione, perché di qui a venerdì sapremo qual è l'andamento del mercato del lavoro in America. Questo è un indicatore molto importante, perché ci farà capire che cosa farà la Federal Reserve a settembre. Da Jackson Hole in America, dove sono riuniti tutti quanti i banchieri, è partito un messaggio da Bernanke. Non era soltanto ai politici, quello che oggi ha dato sostegno alla borsa, ovvero: non pensate solo al rigore fiscale, ma pensate alla crescita. Questo è stato un messaggio nuovo da parte di Bernanke, ma anche perché ha detto che il prossimo incontro del Federal Open Market Committee, che è l'organo esecutivo di politica monetaria della Federal Reserve, durerà due giorni anziché uno. Qui parliamo di un momento importante, una novità: dura sempre un giorno, quello di settembre. Questo vuol dire che la Banca Centrale Americana potrebbe prendere dei provvedimenti molto importanti a sostegno dell'economia, e questo è quello che sta dando sostegno. Ecco, Bernanke dice: non pensate solo al taglio, diciamo, del debito, ma anche le misure per la crescita, che è un'accusa che viene mossa anche da più parti alla nostra finanziaria. Qui vengo all'ultima domanda che ho per te. Adesso ci collegheremo dopo il traffico con Vincenzo Miglietta per capire che cosa sta trapelando dopo l'incontro questa mattina tra la Lega e Berlusconi ad Arcore, il vertice della Lega, il nuovo incontro alle 20 scade il deadline, il termine ultimo per presentare gli emendamenti. Tu pensi che questa finanziaria, comunque, al di là dei ritocchi interni, possa comunque metterci in sicurezza rispetto all'autunno? O qua andiamo a ragionare, diciamo in maniera brutale, già di una manovra correttiva? Beh, ma se fosse possibile giudicare la manovra da quello che si sa, daremmo un giudizio. In realtà non è ancora possibile, il vertice di maggioranza è ancora in corso, non riusciamo a capire quali saranno gli emendamenti finali, il giudizio complessivo resta negativo, ovviamente. Qui parliamo ancora di aumenti delle entrate attraverso pressione fiscale, non parliamo di tagli di spesa radicali e addirittura questa patrimoniale che sta mettendo, di cui si sa ben poco, però di quello che si sa, questa sorta di patrimoniale che pensa la Lega è, non è di fatto una patrimoniale, ma è un passo propedeutico probabilmente a un condono. Quindi siamo andando avanti in questa direzione. E il giudizio mi sembra abbastanza netto anche sulla manovra finanziaria. Io ringrazio Alessandro Pratarotti, vice direttore del Sole 24 Ore. C'è il grazie traffico. Poi ci colleghiamo appunto con Vincenzo Miglietta e chiudiamo con la Grecia, con due debolezze che non fanno, sommandosi, una forza, ma è intervenuto l'emiro del Qatar a metterci mezzo miliardo di dollari per permettere la fusione di due banche. Vedo che Alessandro vuol dirmi una cosa su questo, prego. Sì, che è interessante vedere che dietro tutta l'euforia della borsa, dietro questa fusione più 12% a Atene, in realtà lo spread del decennale greco sul Bund si è allargato nuovamente, quindi vediamo il doppio passo. Quella fusione non serve a niente per l'economia greca, anzi fa peggiorare quello che è il costo per la Grecia del trovare finanziatori. Grazie di nuovo Alessandro Pratarotti. Traffico, Focus Economia. Minuti e mentre eravamo nella pausa, nell'aggiornamento del traffico, è arrivata la notizia che è terminato il vertice di maggioranza, un vertice molto articolato, ripeto, iniziato questa mattina da Arcore, Berlusconi, Bossi, Tremonti, poi una sospensione perché la Lega si è riunita in via Bellerio per valutare le varie proposte di modifica alla manovra finanziaria, poi nuovo vertice. Allora, Vincenzo Miglietta, buonasera. Buonasera ai nostri ascoltatori. Che cosa è uscito? Io ricordo che le posizioni iniziali, molti di voi che hanno letto i giornali le sapranno a memoria, la Lega è contraria all'aumento dell'età pensionabile, era a favore di una patrimoniale sui redditi sopra 1,5 milioni, casa esclusa, e ancora il no invece della patrimoniale del PDL, l'ipotesi IVA, su questa la Lega era, diciamo, in posizione più dialettica ma tendenzialmente negativa. Che cosa sta uscendo sugli emendamenti, visto che tra un'ora e mezza si chiude il termine ultimo per presentarli? Sì, giustamente tra un'ora e mezza si chiude il termine per gli emendamenti di matrice parlamentare, domani invece vi è ancora tempo per gli emendamenti di fonte governativa. Diciamo subito che stiamo parlando a livello di indiscrezioni, quindi sembra che non ci siano interventi sulle pensioni, così come non saranno tagliate le province, tema a questo che andrà in un disegno di legge costituzionale insieme al tema del sì, perché Vincenzo, mentre tu stai parlando sta uscendo un flash di agenzia in cui in realtà, appunto, come tu già anticipavi, vi sarebbe un accordo per la soppressione di tutte le province italiane, però per via costituzionale, e questo vorrebbe dire tempi più lunghi, perché se devi riformare, devi fare un iter costituzionale, hai bisogno di maggioranze qualificate a tempi più lunghi. Cioè la novità sarebbe che avrebbero soppresse tutte le province, e questa, vedo molti ascoltatori, sarebbe una buona notizia. L'aspetto più delicato da capire è quanto ci si mette con una via costituzionale, perché sappiamo che poi è un iter più lungo. Vincenzo? Assolutamente, quindi tutte le province e anche il tema del dimezzamento del numero dei parlamentari, ma logicamente utilizzando questa strada costituzionale, si sa quando si inizia, non si sa quando si arriva, soprattutto ricordiamo che tra 2 anni c'è il termine della legislatura e eventualmente si procedesse con DDL costituzionale, vi sarebbe comunque la decadenza del provvedimento. Eh sì, o lo fai entro il 2013 o devi ripartire da zero. Assolutamente. Per quanto riguarda le altre indiscrezioni, dovrebbero trovare conferma il fatto che vi è il dimezzamento dei tagli previsti agli enti locali. Quindi da 9 miliardi in 2 anni a 4 miliardi e mezzo in 2 anni. Assolutamente. E la parte quindi che non sarà tolta agli enti locali dovrebbe essere compensata con l'innalzamento dell'IVA di un punto. Quindi quella viene confermata, perché ne parlavamo prima con il direttore del Centro Studio del Confcommercio, sarebbe confermato l'innalzamento dell'IVA dal 20 al 21%? Sì, questo per quanto riguarda, ecco, sempre indiscrezioni, poi... Ecco, guarda, nel frattempo continuano a uscire anche le agenzie, 2 miliardi in meno di tagli agli enti locali, quindi non è la metà, nel senso che erano 9 miliardi di euro di tagli agli enti locali distribuiti su 2 anni, e invece perché sarebbero praticamente 4 miliardi, 2 miliardi subito e altri 7 miliardi dopo, sarebbe da 9 miliardi si passerebbe a 7 miliardi di taglio degli enti locali, da recuperarsi, come tu ricordavi, con l'IVA, anche se un punto percentuale di IVA in più ha un gettito stimato tra i 4 e i 5 miliardi, quindi superiore alla riduzione del taglio per le province, per gli enti locali. Assolutamente, quindi in questo caso vi sarebbe comunque un intervento sufficientemente importante attraverso l'IVA, al punto quindi da non intervenire su altre voci di cui si era parlato. Probabilmente potrebbe anche non esserci la cosiddetta tassa anti-evasione di matrice Lega, lo ricordavi giustamente da studio, quella che andrebbe a colpire i patrimoni oltre un milione e mezzo. Un milione e mezzo, prima casa esclusa, sì? Mentre? Assolutamente. Mentre invece sembrerebbe confermato anche l'innalzamento dell'asticella per quanto riguarda la famosa tassa di solidarietà, uscita da Palazzo Chigi a 90.000 euro, dovrebbe essere almeno portata a 150.000 se non 200.000 euro. Sì, tanto il risultato non cambia, all'87% sono comunque dipendenti e pensionati. Grazie Vincenzo Miglietta, che ritroveremo nei nostri GR per aggiornamenti a quel punto ancora più compiuti e definitivi, se verranno confermate queste indiscrezioni. E siamo veramente in conclusione, però, come vi avevo promesso, ci occupiamo di Grecia, di questa unione di due debolezze. FG, Eurobank, Ergasias e Alfa Bank, la seconda e la terza maggiore banca della Grecia, hanno annunciato di aver raggiunto l'accordo per una fusione. Tra l'altro, il nuovo soggetto si chiamerà Alfa Eurobank, sarà la più grande banca greca, anzi di tutti i Balcani, con 150 miliardi di asset, 80 miliardi di depositi e 2000 filiali. La borsa di Atene è arrivata a guadagnare il 12%. Dopo questa notizia, anche se, come ricordava Alessandro Platerotti, gli spread con il Bund sono aumentati. In realtà è una finta fusione, perché tutta l'operazione è possibile grazie ai soldi, ai petrodollari, petroeuro che mette il Fondo Sovrano del Qatar, quasi 500 milioni di euro per l'operazione. Ce la racconta Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Vittorio, buonasera. Buonasera a te. Com'è che due banche si fondono, ma diciamo arriva un terzo soggetto che è già azionista di una di queste due banche, che deve mettere mezzo miliardo dentro per la fusione? Sì, molto semplice. La situazione greca vede una fuga di depositi di 21 miliardi di euro da dicembre 2010. Il downgrading del debito sovrano, che colpisce tutti i detentori di bond, fra cui appunto le banche greche, che dei 300 miliardi di euro di debiti di bond ne posseggono 40 miliardi, e il piano per salvare la Grecia, il secondo piano, prevede un intervento da parte dei privati per il 21% di perdite mediamente, e poi ci sono i prestiti inesigibili che aumentano perché è il terzo anno di recessione. Ecco per cui le due banche, che solo 3 anni fa valevano 23 miliardi di capitalizzazione, oggi ne valgono 2, e quindi due situazioni di debolezza si sono messe insieme. Ma in realtà, al di là della fusione, queste due banche se le ha comprate il Qatar? Beh, diciamo che il Cavaliere Bianco ci mette i soldi, perché alla fine qualcuno deve appunto ricapitalizzare il Qatar, quindi diciamo la finanza araba, che ha questa grande possibilità con il petrolio, che continua comunque a essere una fonte ininterrotta di appunto profitti, e quindi si è comprato a prezzi di saldo due ottime banche, perché le banche greche sono ben posizionate sia appunto nei Balcani, nei paesi dell'est, fino in Polonia. La Eurobank ha una quota in una banca polacca molto buona, quindi sono strutture molto buone. Più che Cavaliere Bianco, potremmo dire Sceicco Bianco a questo punto. Grazie a Vittorio D'Arold. Un'ultima notizia e poi vi lascio. Sembra invece che non vi sarà nessuna modifica all'IVA. Nessuna modifica all'IVA. Non è prevista appunto una modifica, e questo sarebbe messo dal vertice di maggioranza d'Arco. Stanno uscendo le agenzie una dopo l'altra, secondo me è meglio aspettare e avere una versione definitiva. Per questa puntata di Focus Economia è veramente tutto. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.